24. La storia. Oggi che magnifica giornata, che giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, ma ha lasciato al Claudio Villa è stato, secondo me, uno dei giganti veramente della musica nazionale. Ha inciso 3.000 canzoni e ha venduto in un mercato non globalizzato 45 milioni di dischi. Quindi è un gigante. Senza malinconia, vivere senza più gelosia. Già anche negli anni 60, quindi parliamo degli anni 60, parliamo di 50 anni fa, Claudio Villa non faceva comodo. A 40 anni già lo chiamavano il vecchio. Beh, senza dubbio aveva un carattere molto deciso che ad alcuni può essere sembrato spigoloso in certi momenti. Passo in mezzo alla folla, alcuni giovani, uno di questi mi fa, dice, che cosa sei venuto a fare? E tu gliel'hai dimostrato? Io gli ho dato una sberla, dico, adesso lo sai che cosa sono venuto a fare. Spesso la commedia dell'amore, la tua donna recita ti fa, tutti pensi allora il primo attore. Lui era di chiara fede comunista. Poi passò ai radicali. Lui era anche ateo, ma soprattutto era poi un anticlericale. Mi ricordo che ci fu una certa sollevazione popolare quando sposò la ragazza di 17 anni. Amore contrastato, amore difficile, però è stata il meglio che si potesse aspettare dalla vita. Claudio Pica, in arte Claudio Villa, romano di Trastevere di famiglia modestissima. Oggi a Mix 24 raccontiamo la sua storia. Padre venditore d'acqua e calzolaio, madre donna delle pulizie e urlatrice. Uno dei cantanti più amati e odiati della musica leggera italiana. Una voce inconfondibile, prima in falsetto a causa di una malattia ai polmoni, ma che grazie a un'operazione si trasforma in un timbro potente e aperto. È il reuccio della canzone italiana, è come un vero monarca e sempre pronto a dare battaglia, chiunque osi criticarlo o contraddirlo. Un cantante che ha attraversato la rivoluzione della musica degli anni 60, ha affrontato la contestazione e le feroci accuse della critica, rimanendo sempre a galla e non abbandonando mai il suo stile e le sue melodie. La sua storia parla di noi, dei nostri ricordi, dei nostri amori, delle nostre canzoni. Che vivo alla luce del sole, io mi accontento di quello che ho, posso parlare con poche parole e questa sera io vi canterò. Che si dà, che si dà, quando un uomo incontra una donna, che si dà, che si dà, ogni uomo che ama lo sa. No, mi dispiace proprio. Ma di Trastevere non ci si può dimenticare. Trastevere è una cosa meravigliosa, naturalmente. È il cuore di Roma. Erre te verete serve da cintura. San Pietro e Campidoglio da lentiera. Quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma, prima sera. Claudio Villa proviene da una famiglia modesta e anche lui porta l'acqua insieme al padre e a volte, per farsi compagnia, canta. La madre è una donna delle pulizie nel teatro Ambra Iovinelli e grazie ad un provino che lei stessa procura al figlio, Claudio Villa debutta prestissimo. Sentiamo il giornalista Gigi Vesigna e Paolo Limiti. Oh, e gira in quella roda, la rodella, davanti alla regina. mattina cieli ci hanno messo la sentinella. La mamma faceva le pulizie all'Ambra Iovinelli. Ha parlato col direttore dell'Ambra Iovinelli dicendo che suo figlio aveva una voce d'angelo, l'hanno provato e l'hanno fatto esibire. Debuttò addirittura a 11 anni, e tu pensa che la prima cosa andò su un palcoscenico a cantare, non avendo ancora preso lezione, eccetera, a 11 anni a cantare le prime cose. Oggi a Mix 24 stiamo raccontando la storia di Claudio Villa. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24. Quella che raccontiamo oggi è la storia di un cantante italiano molto amato ma anche contestato. È Claudio Villa. Figlio di una famiglia modesta, Villa da ragazzo lavora in una tipografia e lì però si ammala ai polmoni. Ma continua a cantare, come racconta Paolo Limiti. Fu il periodo in cui cantava appunto con in falsetto. Perché? Perché ovviamente affaticava molto meno i polmoni nel dovere cantare. Il primo amore non si può dimenticare. All'inizio Claudio Villa canta in falsetto, finché non si opera e riacquista l'uso pieno di tutti e due i polmoni. Un momento di riscatto e di esplosione della voce, come raccontano la seconda moglie Patrizia Baldi, Teddy Reno e poi Paolo Limiti. Quello è stato il momento del vero riscatto di Claudio, riscatto nei confronti della malattia, che lo aveva completamente bloccato. Mamma, mamma, la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Mai più. Divenne famoso perché aveva la vocalità italiana, cioè la grande bella vocalità italiana che ora è stata quasi completamente dimenticata, che tanti anni di controcultura hanno allontanato come una cosa deteriore, eccetera. E invece è un'eredità del melodramma. Lo stile di Claudio Villa come cantante di canzoni non è il più remoto dallo stile, per esempio, dell'opera verista. Spari. Aveva una bellissima voce e devo dire che in tutti questi anni che eravamo stati insieme con lui, io non l'ho mai sentito, non dico stonare, ma nemmeno calare, fare una piccola calatina, non mi era mai successo, era di un'intonazione favolosa. In definitiva appartiene a un ceppo di cantanti che negli anni 30 poteva essere rappresentato da Carlo Buti. La luna splende un venticello spira. Carlo Buti era già un tenorino, direi che lui agli inizi era proprio un po' taioleggiante, ma aveva di più, aveva uno spirito popolare molto più forte. Luna marinara. Luna rossa, brano del 1954, è il primo grande successo del cantante, come ricordano sempre Patrizia Baldi e il figlio Mauro Pica. Vado distrattamente abbandonato. Gli occhi e sotto cappella nascono. Stiamo parlando del 52-53. Poi sono arrivati Sanremo, poi è arrivata comunque la televisione, ma i suoi primi successi sono stati alla radio. Luna Rossa è uno di quelli. E a Luna Rossa le parle te, io le domande si aspetta a me, e mi risponde si a tuo sapere, che non c'è sta nessuna. È stato un successo incredibile, ha venduto oltre 1 milione di copie e non solo questo, è stato tradotto e interpretato in oltre 40 paesi del mondo, quindi stiamo parlando di veramente di un successo planetario. Claudio Villa nella sua carriera incide 3.000 canzoni e vende in un mercato non ancora globalizzato 45 milioni di dischi. E come racconta il musicologo Gianni Borgna, proprio con lui nascono i fan club. Il mio canto è l'ultimo addio d'un nostalgico cuore. Beh, Villa ha avuto un successo enorme da tanti punti di vista. Intanto un successo popolare e lui è il primo che crea i fan club. Voglio vivere e godere l'aria del mondo, perché questo incanto non costa niente. Ah, oggi amo attentamente quell'uccello impertinente, vede il treno dell'amore. Le strade bloccate, i cordoni di polizia, i fuochi d'artificio in suo onore, i mazzi di fiore, i teatri che registrano immancabilmente il tutto esaurito. Negli anni 50 l'Italia impazzisce per Claudio Villa, il brano Luna Rossa vende più di 1 milione di copie ed esce in 45 paesi del mondo. La sua popolarità cresce vertiginosamente anche all'estero. Ma naturalmente è in Italia che nascono i primi fan club. I suoi ammiratori si organizzano per seguirlo in tutte le sue tournée e Villa si concede a loro con generosità. Sentiamo due fan d'eccezione, la fondatrice del primo fan club, Carla Vannucchi, e Mercedes Bresso, ex presidente della Regione Piemonte, anche lei presidente di un fan club di Villa e autrice di una sua canzone. Sono 3.200 dischi, tutti quelli incisi da Claudio. Binario, triste solitario, tu che portasti via col treno dell'amore la giovinezza mia. I nostri amici ci prendevano in giro, dicevano che ci piacevano delle cose, come dire, un po' datate, ecco. Ero sempre a ascoltare, quando c'era l'orchestra di Gino Conte, io mi piazzavo lì alla radio e non mi muovevo. E all'epoca cantava Claudio Borgantico, queste canzoni, le prime canzoni di Claudio. Mi piacevano i cantautori italiani, Paoli, Tenco, Bindi, De André, ma contemporaneamente mi piaceva anche Claudio Villa. Poi è venuto a Prato nel 55, avevo la febbre a 39, ma sono andata a vederlo comunque. Da lì mi è venuta l'idea di fondare questo club, insieme a un mio amico abbiamo preso un locale in affitto e avevamo tutti gli iscritti, ballavamo e ascoltavamo tutte le canzoni di Claudio. Io voglio bene a te come a nessuna, oh bella mia Sartina, mi piaci con quell'aria sbarazzina. Costituimmo un fan club che allora si chiamavano Club Claudio Villa, non si chiamavano ancora fan club, dico sempre ridendo che è stata la mia prima presidenza, perché avevo credo 15 anni ed ero presidente del club, quindi fu la mia prima presidenza. Faceva io quando parli ti do ragione, sempre ragione, oh oh oh. Io quando parli ti do ragione, sempre ragione, oh oh oh. E se comandi ti so obbedire, non dico niente, oh oh oh. Per me va bene, poi tanto faccio quello che piace a me. Una volta andando a comprare dei dischi alla Cetra, lo trovammo che doveva registrare una canzone scritta da lui che si doveva chiamare Furibondo Twist e non aveva ricevuto le parole. Ci chiese, io devo partire, quindi devo registrare domani obbligatoriamente, non sono arrivate le parole, sapreste scrivermi un testo? e ci sfidò un po'. E quando uno ha 15 anni pensa di poter fare qualunque cosa, e noi scrivemmo, andammo a casa, lavorammo tutto il pomeriggio, tutta la sera, parte della notte, e la mattina dopo arrivammo con questo testo che appunto si chiamava Furibondo Triste. Dovrei lasciare me, se non lo paghi un altro schiavo, tu non lo trovi, oh, oh, oh. Ma se per fare quel che le pare ne trovo un'altra, oh, oh, oh. In questo campo Villa non era bravissimo, quindi la canzone non era un granché. Credo che il testo fosse grazioso, quantomeno simpatico. Buongiorno. Negli anni 50 Villa vince numerosi festival e nel 55 con il brano Buongiorno Tristezza si aggiudica la quinta edizione del Festival di Sanremo senza neanche cantare, perché per una fastidiosa laringite è costretto a letto nel suo albergo di Sanremo. Così il ricordo dell'amico giornalista Gigi Vesigna e di Paolo Limiti. Presentiamo Sanremo, quantunque sia celebre la sua perenne primavera di tepore e di fiori. La gentile annunciatrice Maria Teresa Ruta ci presenta il quinto Festival della Canzone. La vittoria a Buongiorno Tristezza. Claudio Villa, ammalato, sarà presente in gara con la sua voce registrata. La strada la sai, facciamoci ancora oggi compagnia. E fu un'idea proprio di Molinari, quella di inquadrare il giradischi con il ciclo che girava, perché era arrivata Miranda Bonansea, che era sua moglie. Non aveva nessuna febbre, nessuna faringite. La moglie, scoperta una sua marachella, disse: stasera quando vai sul palco vado su e dico a tutta l'Italia, c'era la televisione per la prima volta tra l'altro, in coso, quello che hai fatto. E allora venne l'influenza, guarda caso, eccetera. Lei conosce il mio nome? Sì. E in America ha inteso mai il nome mio? No. Ho incappato male, sei americano? Sì. Yeah. Mi conoscevi? No. Un po' piano male, però. Hai inteso mai di Claudio Villa a Washington? No. No. Ce ne fosse uno che ha detto di sì. Ma io non ho capito, sono stato tante volte in America, ma che quando vado io chiudo la radio, non ho capito. Claudio Villa, ancora una volta, insieme a Modugno, è il grande cantante italiano e internazionale. Si esibisce in Russia, Giappone, Sud America, Spagna e in Cina, come ricorda il figlio Mauro Pica. Mio padre è stato il primo artista, credo, straniero a cantare in Cina e ha cantato di fronte a un numero ristretto di intelligenze, fra virgolette. Strangers in the night, two lonely people will be strangers in the night, after the moment in the I first alone, let me be we know. Love just a glance away, a warm embrace intense away. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia di Claudio Villa, un cantante che nonostante il successo non riesce a ottenere il consenso della critica. La stampa infatti sembra non riuscire ad amarlo. Sarà per quel suo carattere irascibile, o forse perché è un istrione popolano, o forse più semplicemente perché è una persona che dice sempre quello che pensa. La critica più generosa lo definisce un carattere difficile, spigoloso. Altri invece lo definiscono scomodo e antipatico. Nel frattempo, però, cambia l'Italia. Negli anni della contestazione, Claudio Villa è un bersaglio perfetto anche per i giovani che considerano quelle canzoni, quel modo di cantare, il simbolo di un passato da battere. Ma lui naturalmente non ha nessuna intenzione di darsi per vinto, come ricordano i suoi fan. 12 giorni fa al velodromo Vigorelli di Milano. La scorsa settimana a Carrara, ieri a Bologna. Ormai è evidente che il contrasto tra i giovani e Claudio Villa si è trasformato in una guerra aperta che coinvolge due e tre generazioni. Ventenni da una parte, quarantenni e oltre dall'altra. I manifesti col faccione sorridente del cantante melodico resistono poco. I giovani gli danno la caccia. Io le dico che quando uno è vent'anni che sulla breccia canta tutore e applaudisce, c'è i pro e i contro, c'è i pro e i contro, già quello si sa. Ma però Claudio Villa ha niente da fare al giorno d'oggi con i ragazzi dal giorno d'oggi. Io mi scontravo con i miei coetanei perché chiaramente io... Per me Claudio Villa era tutto nell'ambito della canzone. Come io sono italiano e non sono nato in Groenlandia, bensì sono nato a Roma, in Trastevere, io domando a questi cari miei amici giornalisti che male c'è se io canto all'italiano? Lui aveva un modo di cantare, di presentarsi, eccetera, che non era più di moda in quel momento. Lui è stato contestatissimo perché c'era un pubblico che l'adorava e un pubblico che lo, cioè, non che non gli piaceva, che lo massacrava. Oh mia bella mora, non mi ricordare, non mi devi far notare. Oh no no no no no, oh mia bella mora, no no no, non mi spacciare, non mi devi più scocciare. Oh no no no no no. Marina, Marina, eppure Villa aveva un suo pubblico, perché l'errore è anche questo, di pensare che si debba tutti andare in una direzione, no, c'è un pubblico che ama i Beatles e i Rolling Stones, ovviamente in quel momento i giovani, ma c'è anche un pubblico sicuramente meno giovane, ma non è neanche detto, che anche in quel momento continua a amare Villa. Bravo! Te lo manda Tutankhamen. Claudio? Sì, benissimo. Io resisto più di Tutankhamen. Io resisto più di Tutankhamen a cantare. Grado te. Nonostante i fischi, le critiche e le contestazioni giovanili nel 1967, anno della morte di Tenco, con il brano Non pensare a me, Claudio Villa vince il Festival di Sanremo e dimostra di essere ancora popolare. Lo ricordano per noi Mercedes Bresso e le figlie, Aurora e Andrea Celeste Pica. Non pensare a me, il sole non si spegnerà con te. Si sentiva il reuccio, no? Cioè si sentiva il re della canzone italiana e voleva che gli venisse riconosciuto questo ruolo. Era uno che appunto non la mandava a dire e quindi difendeva il suo genere. È proprio lui, è il reuccio, il quale ha voluto fare evidentemente lo spiritoso, si è imbavagliato. Non c'è bisogno, Claudio, nessuno ti imbavaglia a te. Chi ti regge, Claudio? Mio padre ha sempre detto quello che pensava. Riguardo alla religione, io lo penso e te lo dico. Riguardo il festival, io lo penso e te lo dico. Antipatico, scomodo. È ovvio, cioè, è scontata come reazione. Io ti dico qualcosa che tu non vuoi sentire o che comunque ti mette in discussione e tu mi dici, senti, fammi una cortesia, levati. Io odio e poi ti amo. Villa è attaccato da tutte le parti, ma vuole difendere la sua tradizione. Quindi è chiaro che, non essendoci una possibilità di dibattito, quelli che non potevano contestarlo non lo amavano. Cioè, in fondo, l'Italia di Claudio Villa era l'Italia tradizionale, quella che ancora adesso, diciamo, è rappresentata in modo magari più alto, ma da Boccelli, no? Una voce classica che canta molto bene le romanze e i più bei brani d'opera. Voi questa sera avete detto delle bellissime parole che mi hanno riempito veramente il cuore di gioia. Ora io mi domando una cosa. Perché non avete scritto i vostri articoli con lo stesso tono di simpatia e di cordialità come avete parlato questa sera? Per farle un argomento... Lui invece pretende il riconoscimento di quell'Italia nella sua persona. Questo ai giornalisti appariva assolutamente insopportabile. Oddio quanto sei racchia! Racchia, racchia! Mettete un po' di profilo! C'è il naso che te gola in della scuola. Per le donne, lui perdeva letteralmente la testa. E più cicciottelle e rotondette erano, più gli piacevano. Il pericolo numero uno, la donna. L'incantesimo numero uno. Claudio Villa ama le donne, pericolo numero uno. Così ne parla intervistato negli anni Ottanta. Senta, signor Villa, qual è la donna che l'ha fatta più correre nella vita? Ma molte donne, ma tutte anonime. Quale sarebbe la donna con la quale scapperebbe su un'isola deserta? Una contadina dell'agro romano. Bella, quelle così belle, prosperose. Le donne nella vita sono la cosa più gradita. Nel 1952 Claudio Pica, in arte Villa, sposa l'attrice e doppiatrice cinematografica Miranda Bonasea, da cui avrà solo un anno dopo il figlio Mauro, che ricorda così l'unione dei genitori. Si corrompono negli anni, primi anni 50, 50, 51, la mamma come era una, da piccola era stata una bambina prodigio, ha fatto il primo film di Totò, ha fatto il primo Fermo con le mani. Si sono separati negli anni 60 e le loro strade si sono divise. La passione di Villa per le donne mette in crisi il matrimonio dopo 10 anni e anche nella vita sentimentale il reuccio verrà giudicato e fortemente criticato. È il 1973, Claudio Villa si innamora di Patrizia Baldi, lei ha solo 16 anni, sentiamola. Avevo un po' paura perché questo uomo molto più grande di me, ricordo che eravamo in barca e lui mi venne vicino e cominciò a parlare, che mi ero fatta grande, cominciavo ad essere una signorina, ero anche carina e questo discorso mi... Non mi sospettì, perché non c'era motivo per sentirsi insospettiti, però mi sembra molto, molto strano, molto particolare. Storia d'amore, due figlie, amore contrastato, amore difficile, perché sicuramente non si può pensare che una storia tra una persona che ha una differenza di 32 anni l'uno dall'altro, poi soprattutto essendo io molto giovane, sia una storia semplice e facile, però è stata il meglio che si potesse aspettare dalla vita. Diciamo che una delle mie più grandi rivali è stata la moto, perché poi non riuscivo più a seguirlo, poi comunque avendo le bambine, il mio percorso con lui... Nel girare il mondo poi comunque si è dovuto fermare. Dalla relazione extraconiugale con la cantante romana Noemi Garofalo nascono negli anni 60 due figli, Claudio e Manuela, entrambi riconosciuti figli legittimi dal Tribunale di Roma dopo la sua morte. Noi abbiamo il cognome anagrafico di mamma perché da 11 anni stiamo lottando per una causa di riconoscimento. E la persona, diciamo, è la persona chiaramente implicata, tra virgolette, è l'artista Claudio Villa. Voi siete, dite di essere sì, figli di Claudio figli Villa. Figli naturali, come si e dice. Come si fa, e come si fa sì, quando infatti. Il genitore è morto a dimostrare una cosa del genere? Noi abbiamo fatto l'analisi del DNA quando lui era vivo. Lui si è sottoposto volontariamente? Sì, volontariamente, certo. E il risultato qual è? Positivo. Siete i figli di Claudio Villa, siamo sicuri? Per quanto riguarda, sì. No, lo dico. Sì, sicurissimi. I due ragazzi inizieranno una causa legale per il riconoscimento della paternità e del cognome del padre, che nel frattempo si è costruito una nuova famiglia. insieme a Patrizia Baldi, che ha 32 anni meno di lui. E uno di loro, Manuela, intraprenderà a sua volta una carriera nel mondo dello spettacolo, proprio a partire da alcuni grandi successi del padre. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la vita dell'artista e dell'uomo Claudio Villa. Nel 1980 Villa interviene nelle zone terremotate. Il suo impegno civile lo avvicina al mondo della politica, come testimoniano il figlio Mauro Pica e poi lui stesso intervistato nell'84. Nelle zone del terremoto gli aiuti sono arrivati in maniera massiccia. Ieri a Vietri di Potenza abbiamo visto per esempio un volto noto, Claudio Villa, che distribuiva nelle campagne soccorsi. La gente rimaneva sorpresa, quasi sconcertata da quel volto familiare e oltre a un grazie partiva un sorriso commosso, forse il primo dopo quella sera maledetta. Molte volte gli hanno proposto un seggio in Parlamento e lui non ha mai accettato. Una legge firmata a Claudio Villa. L'ordine, il rispetto nella libertà, onestà. È mai stato ricevuto da Pertini? No, mi chiedo come mai ancora non mi riceve. Nonostante la sua fede comunista, Villa si iscrive al Partito Radicale, come raccontano il giornalista Gigi Vesigna e l'ex presidente della regione Piemonte, Mercedes Bresso. Perché poi politicamente era un contrasto vivente, perché lui era di chiara fede comunista. Poi passò ai radicali. Si disse che passò ai radicali perché Berlinguer non è andato a fare il testimone delle sue nozze. Anche questa, vero o falsa, leggenda o meno, però è una storia che si raccontava. E anche qui però stava dentro, diciamo, questa sua reattività, questo suo sentirsi escluso, questa sua volontà invece di stare nel filone principale della musica italiana, e quindi anche questa sua ricerca di impegno politico nasceva da quello, da una volontà di riconoscimento, da un'ansia di riconoscimento da parte del suo paese che in fondo non ebbe mai completamente. Discussa la sua adesione alla loggia P2. Così Villa risponde, intervistato da Enzo Biagi. Ci tengo a precisare che la massoneria è una cosa e la P2 è un'altra. Sì, questo l'hanno già precisato allora, in tanti. No, perché sennò si fa un'enorme confusione. Ma mi chiedo che interesse aveva uno come lei. A me l'interesse, non lo so, poi mi ad entrare in una loggia che lei aveva già in pubblico. No, non avevo nessun interesse. Mi piaceva l'ideale della massoneria, che era di fratellanza, di solidarietà, di aiuto. E questi sono. Poi dicevo, stai in buona questo compagnia, c'è perché anche c'è nella stato San Garibaldi. Vincenzo. C'è anche nella San Vincenzo. No, la roba di San Vincenzo non mi sta bene. Non è per i santi. No. Capisco che potrebbe essere poco credibile. Ma conoscendo mio padre non mi proprio importava assolutamente nulla di far parte di un'associazione che avrebbe potuto facilitarlo, per che cosa? Al Festival di Sanremo del 1982 Claudio Villa sembra escluso e invece torna quasi come un esordiente. Così raccontano Gigi Vesigna e la moglie Patrizia Baldi. Alla vigilia del Festival dell'82, un paio di mesi prima, mi telefonò e mi disse: la Vera non mi vuole al festival. Se non puoi fare niente, guarda Claudio, sai benissimo che io non intervengo mai. L'idea non era stupida. Cioè, Villa, il provocatore, il guascone, il paladino, che andava con i giovani e ritornava giovane. Cioè, era un bel gesto. Eravamo dietro alle quinte del teatro Ariston e gli si avvicinò Ravera e gli disse: guarda, comunque vada questa serata, non ti preoccupare perché tanto ci saranno altre manifestazioni alle quali tu potrai partecipare. Ma lui mezz'ora prima mi ha dato la mazzata, mi ha detto: vai tranquillo, vai, tanto io ho altre manifestazioni. Allora tu mi hai capito? Ho capito. Facciamo la pace fuori. La giuria del Centro Italia non dà nemmeno un voto a Villa, che viene eliminato. Ma secondo il fan club Claudio Villa è un imbroglio. E fa aprire un caso, come ricordano Teddy Reno e la moglie Patrizia Baldi. Tutti gli amici del club Claudio Villa di una certa città li telefonarono e dissero: guarda che qui non c'è stata nessuna commissione, perché hanno detto... La giuria di questa città ha votato 001, credo, pochissimo. Invece il club di Claudio Villa telefonò, secondo quanto mi ha detto Claudio Villa, telefonò subito lui dicendo: guarda che qui non c'era nessuna giuria della RAI. Orietta Berti in gara come Claudio Villa, la giuria la voterà? Ma la giuria la voterà. Quale giuria, Bubba? Come potete dire, organizzatore del Festival di Sanremo, corse in fretta, seppe che lui era andato per invalidare la cosa e si inginocchiò davanti a lui, però attraverso le porte esiste una ripresa della RAI in cui si sente Claudio Villa che, rivolgendosi all'organizzatore, dice: sei un infame, sei un infame! Ma io ti distruggo! Infame! No, no, è tutto, è tutto, per Dio! Con quale faccia di merda si presenta davanti a me? Giura su quello che crede, se sei una persona onesta! Giuralo! Disgraziato! Infame! Guarda, se ti capita di sentirlo ti fa star male quando lo senti. Tant'è vero che il giudice diede ragione a Claudio e gli chiese se era suo desiderio fermare il festival, cosa che lui avrebbe potuto fare. Adesso il giudice mi ha dato questa possibilità di riflettere se devo far sospendere il festival o no. Non lo so, sono una persona umana, non lo so. Io amo la manifestazione, so tutti i cantanti, i miei colleghi, non lo so. Lasciatemi prendere una decisione. Io credo che Claudio abbia cominciato a stare male in quel momento. Per lui è stato veramente un dolore enorme. L'animo combattivo di Claudio Villa sembra indomabile. Ha già inciso 3.000 dischi, venduto oltre 40 milioni di copie, compiuto tournée in tutto il mondo, dalla Russia agli Stati Uniti, al Sud America, alla Cina, al Giappone. E sarà proprio nel corso di un tour in Giappone, nel gennaio dell'87, che il cuore del Reuccio dà un primo allarme. Sembra una cosa da poco, facilmente superabile, ma qualcosa va storto e d'improvviso la situazione precipita, come ci raccontano i familiari. La mattina del 2 gennaio, alle 6 di mattina, lui si sveglia e mi dice, non mi dice che sta male, mi dice: ricordati che se dovessi morire mi voglio far cremare. Quando mio padre si è sentito male la sera del suo compleanno, io me lo ricordo perfettamente. Spingeva la motocicletta che non partiva perché credeva che fosse batteria scarica e quant'altro, e ha avuto un'ischemia al cuore. Vorrei tornare indietro per un momento, ma il tempo non... Arrivato al Gemelli viene diagnosticato l'infarto e la necessità di bypass. Ogni volta che ospite in un mio programma o che mi viene a trovare, perché noi abbiamo un rapporto di amicizia veramente tenero sia con lui che con le sue due bambine e sua moglie, io sento nei corridoi: boh, me lo faccio io perché tu non ti devi stancare, eh? Vai pianino. Aspetta un momento, perché non è che sono moribondo. Scelse Padova dal professor Gallucci, anche lì è molto istintivo, dice perché? Perché era uno dei primi che aveva fatto i trapianti in Italia. L'operazione è risultata più complessa di quello che si pensava. E mi ricordo che io guardai mia zia e le dissi: tanto io lo so che papà muore, perché lo sento. Purtroppo devo dare una brutta notizia e mi sembra doveroso interrompere per un momento questo spettacolo che è fatto di festa, di gioia e di canzoni, per rivolgere l'ultimo applauso a Claudio Villa. Io non riesco a essere contento fino in fondo perché 5 minuti prima di venire a cantare questa canzone ci è arrivata una notizia che a me mi ha sconvolto, perché Claudio Villa era parte anche della mia vita, perché io ho diviso 20 anni di lavoro con lui. Quindi non posso, per me è una vittoria bellissima perché è la prima volta che vinco Sanremo, però... È il 7 febbraio 1987, Claudio Villa muore a Padova. Scriveva così poco prima di morire. Come è possibile che un giorno dovrò dire addio per sempre all'azzurro del cielo, al verde del mare, all'amore e a tutte le altre meraviglie della terra? È meglio non pensarci per il momento. Comunque, e lo dico anche per esorcizzare quello spettacolo terribile, voglio che sulla mia tomba venga inciso il motto che mi accompagna da sempre: vita sei bella, morte fai schifo.